del cane, alle volte magari vai in avaria, non lo so, va bene, comunque così non ce ne sono dei picchi negativi. No, chiama. Io sono rientrato, dai, ho telefonato con mia figlia, ho telefonato a Bologna e stavo parlando con lui. Oh, positivo. Allora già, questo è il 39, com'è? Va benissimo. Va bene, dai, tutto chiuso. Dai, saluto a cosa? A Napoli. Giulio, che sta andando via. Buona serata, va. Ciao Giulio, avanti già. Ciao Giulio, ci sentiamo, dai, buona serata. Anche se non mi sono potuto trattenere molto prima perché mi ha chiamato mia figlia e i figli sono pezzegoni. Ok, Dio, ciao a tutti, dai, chiudo. Guarda, ciao. Allora, vediamo un po'. Così al massimo mi chiedo forse troppo, ciao. Com'è già? Va bene come radio? Sì, sì, va bene. Va bene anche così, ma è molto forte, dai. È molto alto. Prova a mettere il checco. Esito, sì, mi lamento, mentre fa cosa? Aspetta, Cambio. Ti faccio schiattare. No, la volevo ascoltare Gianni, dai. È bella questa radio comunque. Va bene, cambio. Cosa le avevi fatto fare, Massimiliano Puri? Gli ha sistemato il frequenziometro un pochino e l'ha allineato, dai. Cos'era? Aspetto? No, negativo, si è andato via privati su. Ah, ecco. Con effetto ce l'avevo anche l'S9, non so se il tuo lo faccia, però l'S9 mi hanno detto, ho letto anche su forum che facevano quel difetto lì, che se ne andava per tutto il suolo sul coso, le frequenzie. No, già, il mio l'avevo ascoltato, dai. Allora, così togliamo il bip. No, il mio l'unica cosa che c'ha è si stanno fulminando i segmenti e basta, però non è sempre sulla frequenza giusta, dai. Eppure io ce l'ho già un mediano. Ebbene, si può fare, ma non si possono mettere la mano. No, ci vuole frequenzimetro nuovo, e boh. Cosa che non lo trovi? È già fatto, è già tutto che non si trova. E l'abbiamo mandato anche fuori. Io praticamente c'era un S9 io. A me non mi ha mai fatto nessun difetto, l'ho venuto. La persona che l'ho venuto gli ha fatto un difetto dopo un bel po' di mesi, però dopo 6 o 7 mesi gliel'ha fatto. No, questo diciamo che nessun difetto, vabbè, quello è il mio che già usai, come te, è preparato, ma basta spendere il frequenzimetro e lasci solo il canale, ordina tutti. Ah, beh sì, infatti, lo puoi fare tranquillamente. No, mi piace l'altro a me, quello che mi ha mandato. Quello lì già bello, sì. Quello era un'ottima radio, ma se tu la prendi in peso quella lì, la metà di sotto, non te l'ho mandata la foto di sotto, la metà di quella radio è tutto pancia, è tutto, come te lo posso spiegare, c'è presente il Magnum, il 175, che c'ha tutto il dissipatore così sotto, così chiedami, compreso dietro nel culo. E beh, a scalda quando lo usi. Cosa scalda? No, assolutamente no. Sono apparecchi che escono con il bar. Guarda, poi, allora, se tu metti un microfono amplificato, non puoi mettere giustamente il parlascolta, perché mi sembra che devi attaccare per il parlascolta una colonnina esterna. E se vuoi usare col parlascolta il microfono da tavolo, ci vuole la colonnina esterna. Qua già c'è tutto. Capo, le decisioni sono tue già. Io ti ho mandato un messaggio, non so se l'ho letto. Vedi, tu fai tu 6 per 6, 30 sì. Ti do un genere di garraio, va un graffio, è nuovo. Bella, ci faccio un pensierino. Ciao. K, poi soprattutto vedi il bipolo, può essere togliere 10 kg, che va benissimo, c'ha l'accordatore, c'ha il come si chiama? Il rosmetro incorporato, cibo doppio, c'è un casino di roba, capito? Io lo smito, vado contro, non l'ho mai educato, e questo non è stato mai aperto la radio, nulla, zero completamente. Mi. Sì, a chi va avanti? Benvenuti, buonasera. Ciao, buonasera. Avanti, già. Ciao, Rui, è bene, tu vado. Tutto fatto, è tornato pure, ma come sono cambiato, ragazzi. Tanto di ottica, vedi. Cibo doppio, sentita, è cibo doppio. E chi è che è cibo doppio? Non c'è più il pipi. Guarda già, ti ho mandato una foto della pancia che c'ha. Che tu la pancia c'ha? Vabbè. No, era giusto per... stavo dando delle informazioni a Gianni, no? Di una radio, che questa c'è così, una radio americana, quindi... È bella, metà Bisanti. Io ti ho chiesto che radio è. Ah, scusa, non ti avevo capito. E questo è il serpente, Cobra, GTL DX, il 200. Bello, sì. Cosa vuoi dire? Lo stai vendendo? Cosa? Stai vendendo? Ci sto pensando. E se lo vendi, quanto? Qua non lo dico. Sì, ma siamo tra amici, fregate. E io non gioco, ma bisogna dare ci, quindi a me non mi interessa far sapere i fatti miei agli altri. Comunque Gianni già lo sa, giusto? Sì, Gianni lo sa. Vabbè. Gianni, riprendi. Questo mandano una foto. Mandano pure a me che lo voglio vedere anch'io. Sono curioso. Ma aspetta che cambio, te lo faccio ascoltare. Ok. Ma mi ascolti? Ciao. Ok, questo qua è. Questo adesso è con la bassa potenza, credo che dia adesso, perché non ce l'ho sganciato dal rosmetro, capito? Però penso che dia intorno ai 3-4 watt e una sessantina, 70 modulati. Gianni, è questo smito rosso? Cosa? Cazzo, tu mi ascolta, accendi, ascolta la modulazione tua, ti ho registrato. Mi ha registrato, aspetta. Sì, già, questo qui è tipo il suo, ma comunque va bene. Ma qua ci puoi abbinare un bel microfono da tavolo. Devo toglierne uno forse, mi è detto quello, ma devo toglierne uno che non è che mi attira molto. Ah, poi non è un problema, già in occhi, non ti preoccupare. Peia, l'ho sentito. Ti piace? Tanto, già è buono, dai. Quello speaker è quello del garage mio, per farti vedere il segnale, se era per ascoltare la radio. E lui l'ho fatto. E allora? La vita non frena. Fai bene. Io sono troppo la possibilità giallo, già lo credo. Io, se dovessi cambiare gli speaker, mi metterei azzurri, perché a me piace l'azzurro. Io sono azzurrino, infatti. Mi piacerebbe anche quel verdolino fluorescente, bello. No, vabbè, no, io ho un apparato per dire che cambia i colori. Cambia i colori, lo può fare verde, giallo, ocra. E lo metto sempre azzurro, perché mi piace azzurro. Rosso lo puoi fare. Cambia i colori col tastino. Beccato. Sì, ma non ho capito l'amico chi è, che c'ho le cuffie, raga. Chi è? Ma ci vediamo, dottore. Ma si vedeva, scusa, ma con le cuffie, non è che moduliamo spesso, infatti stavo pensando, chi è? Mio figlioccio, l'ho battezzato io, Massimiliano. Andava bene. Ha messo la mano in campo, me l'ha fatto un mese tutti lì in mezzo. Va bene ragazzi, io mi assento, ci sentiamo dopo al limite, se coincide poi scendo nel piano di giù, dai, che mi ha chiamato mia moglie, ok? Ci sentiamo dopo, ciao, buona serata a tutti per il momentaneamente, eh? Ok, guarda chi c'è? C'era Claudio, non lo so che fine hanno fatto, perché mi ha telefonato mia figlia dal telefono, e lo telefono non lì. Claudio, non mi dire nessuno. Ti fuggiti, si dice. Ciao, ragazzi. E vabbè. E Cinco che fine ha fatto? Ma l'ho chiamato. Sta andando mia sorella. Poi sono stato pochissimo, poi se volevo prendere, poi l'ho richiamato e non mi hai più risposto. Ma ciao, buono. Deve essere occupato. Io veramente dovevo comprare stasera qualche osso con un po' di carne per i cani e invece mi ha detto no, glielo compro domani, non mangio carne. Sono uscito per miracolo solo per andare alla parolea a prendere roba e basta. Io guarda, nel video ho trovato fegatini di pollo a un euro e il taglio non è mammato, mi piace un bel. Posso farti una massa? Sì, io. Giocava in 11, bucava a volte l'Inter, non ha fatto niente. Cosa avete fatto? Un calcio di punizione, rete. Un rigore, rete. Dai, vabbè. Solo la Juve può fare queste cose, no? A cercarsi i rigori, vabbè, dai, un attimo di piano. No, io non ti gioco i tempi che mi avevi dedicato il rigore c'era. Ah, tu mi hai fatto una domanda e io ho trovato la risposta. Avete vinto per un rigore che c'era su Barella e una punizione tirata bene, ma azioni non ce n'erano. Tutto lì. E poi stavate giocando in superiorità numerica, quindi. Vabbè, avete vinto. Allora, oggi vince la Juve e vai, Juventus su Inter in Coppa Italia. Oggi vediamo se tu ridi a Vinci. A fare gli sborroni. A fare gli sborroni, capito? Vediamo. Buonasera a tutti. Adesso io sono qua in stanza e mi devo guardare la partita, quindi non rompete le palle. Ciao Massimiliano. Ciao Cla. Ascolta, a che canale è questa partita? A Rai 1. Vabbè, c'è un buio del visore in Chinci, Oh, ritirato dai. Ieri sera te l'ho detto, che lo ritiravo. Cambio. Cappa di Roggero, va bene, dai. Mi stai ascoltando bene? Sì, sì, vedi, ma c'è da attaccare l'antenna, attaccata, sì. Sì, sì, che è attaccata. Un filo avrei attaccato. Non sono attaccato, bra. No, tutta la potenza del Galaxy, perché? No, così. No, tutta la potenza del Galaxy. Praticamente mi sta dando 250 watt. No, seconda marcia so. Cazzo, io la picchi di 30 oggi, Vabbè, o vogliamo buoni pure voi in sesta. A voi buoni in folle. No, non c'è la bianca, adesso lascio stare attaccato. Seconda marcia, prima marcia. Ma manco scherreggia un pochetto, dai. Che dire un buon cuore una cosa del genere? Magari esce un fumo allo capo, ma non ne fate niente però. Guarda, io vorrei che tu lo tenessi attaccato 24 ore su 24. Però mi devi dare una radio bella come questa, perché io lo attacco e tu non senti niente se sono attaccato, se non guardi il segnale. Massimiliano se ne accorge. Ma se tu non guardi il segnale, non te ne accorgi perché la modulazione non cambia. Mentre invece la tua cambia e io me ne accorgo. Cappa, io sono normale, sono, non ho già attaccato nulla. E già lo gioco che sei normale, va. Pure io gioco normale. Ma revisione, ma io già me ne sono accorto subito. Cambio. Cambio e passo. Va bene, va bene. Antonio, già. Senta, lo tempo di fava, va a cazzo. Poi cosa ne gioco? Cucci. Fego di cannacua, fego la miscetta, fego di fava. Vabbè. Poi mi sa che me la guardo anch'io la partita, tanto non vado con nulla oggi, no? Ma meglio va così! Meglio va tu! Quanto segna chi sa catturetta? 9-5, a picchi positivi, e io quando ti arrivo tu? Un po' di più, dai, appena appena. Ma io sono con un bel rivato di portata bianca, Bromi. E vai con la mezzo vato di portata bianca. 10 vati di portata bianca solo. Vabbè. Guarda, tu adesso ti faccio una cosa, guarda, vai. Vai, aspetta, Lo vedi? Guarda che picchia. Boom, boom, boom, boom, boom. Cambio? Non mi piace, tira di più. Aspetta che ti mando una cosa. Cappa. Nara, sono qua, sono andato a prendermi il portacello. Ha detto che mi manda una cosa. Aspetta che stacco, dai, stavo scherzando. Cappa. Ho fatto buono io, va. Anche se attacchi tu già lo sai, il gruppito lineare mi li gioco più volte. Già ti arriverò. Ma tu sei già arrivato, ti renderai conto se vuol dire guidare una Mercedes e lasciare la bicicletta a casa, te ne renderai conto, mi dirai, Claudio, avevi ragione. Dove? No, si interrompe Rai 1, ma cosa l'ha pigliato, la mazza delle varie? Un po' che parola la scala del centro, devi guardare, non la prima di qui sotto, quella centrale, ok? C'è scritto Power. E cosa stai usando? La K, ma ci vediamo. Sì, positivo, bene va. Poi, alla grande, una bomba. 9:20, abbondante, radio super, super 5. Cappa già, positivo già. La massa che te ne varia. Hai visto là, con 10 watt, tu, bene va. Hai visto dove va là, così? È già giusto, via. E quindi non va bene. È già un credo che andava peggio. Allora era giusto per, capito. Cappa brioche, vai Luca Riello. Hanno fatto la tumulazione a mio cognato. E hanno cremato, l'hanno messo dentro l'urna. E lui gli hanno fatto la tumulazione. Adesso penso ai giorni, metteranno la foto al mappo. Lui ha 35 anni, gatto. Quanto? 35. Di quella malattia là? No, passo cardiaco. Come si chiamava? Sono Borsolino, aspetta, lo conosco pure me. Nel giornale c'è lui? No. Sai che ci vuoi fare? Oggi è arrivato il 2009, Lucaria. A posto? A posto. Mangiato, ma ci vediamo, ancora no. No, ancora niente, qua. Non va mangiando stasera. E io ho mangiato un po' di salata. Poi mi ho succhiato una banana e sono entrato qua. Guarda. Guarda che ti ho mandato una foto, qua se ti piace. Aspetta, vieni là. Ho visto col K. Ok, andare. Avanti, bombo. K. Ma chi sono andati più puro, o no? Sì, andati più, ma dì che uno deve guardare così a chi viene a fare i buchi. Certo che va di più, ma io perché non devo andare di più quando va bene così. No, qua. E io vuol dire. Vabbè, bello, va bene. Quella è la scrivania, Sto carina. Qua, certo. Sì, quella è la scrivania. Sai come piace a me? Una scrivania così, però per lavoro mi serve. Sarà acciacqua a pochi di là, perché ne ho due qua, ma sono piccole. Invece una più grandetta, in modo tale che abbia spazio. Voglio lavorare bene, bene, bene. Ti te l'ha regalata, Maciglia? No, si dice, cazzo, radio qua, mamma mia, lo sai? Guarda che ci buchi bisogno in giro. Sì, non da nessuno volevi. Cosa? Non da nessuno volevi. No. Me l'ha regalata a Claudio, questo. Lo conosci? Claudio... Quello più di Vella o quello da Cammella? Più di Vella. No. Allora, quella l'ho presa questa tappa per fare quella modifica delle radio, invece hanno messo un'altra base e quella l'abbiamo data a Massimino Bulldozer. Ma comunque là, a parte di questo, io sono d'accordo che ci viene detto le radio a chi la gente ascolta, che siamo già messa, sono d'accordo con Massimiliano, Senta, poi se voglio regalare una cosa, non andare a dirgli in radio, che da poi la gente magari si inirriti, capito? Ma c'è il culo di uomini. Non capito, sei un bealto, cosa hai detto? Ho detto, sono un bealto, e lo so che sono più alto di te. Sì, guridacchi. Cos'è che hai detto, non ho capito? Cazzo guridacchi, sono combinato di testi, io sono 1,77. Io 1,70. Ma te li recupero sotto, però. Sì, vabbè, la prima la arrivi allora, se sei 1,70. Beh, ma te li recuperi giù sotto, però, 7 centimetri. Ho detto che sono d'accordo con Massimiliano e quando si regala una cosa non si dice in radio, chi è che tira a voi, sai da cazzo pensa? Io la penso così, poi ognuno può fare quello che vuole. Se io regalo una cosa la regalo e buff, punto, rimani lì, non andate lì in radio, no? Io me la puto e me la dà di la radio, me la puto c'è di uno da nessuno io. Io avevo piacere di fare un regalo a Massimiliano perché le serviva una scrivania e gliel'ho regalata. Come Massimiliano a me mi può aver regalato altre cose, poi già me la puto a me della gente, ma a me della gente, me ne bocci tutto la gua a gente. È solo gelosia quella, basta. Appunto. Vabbè cosa avete, poi va, ognuno la pensa come ti pare di piatti. Se ne è d'accordo Massimiliano, la posso appoggiare? Sì, appoggia, tranquillo lui. Ha ragione, va. Comunque, nel senso, l'hai vista sopra com'è? A posto, bene va. carina, sì. Poi il colore che piace a me, bella bella. Vabbè, me ne avevo regalato una tempo fa, una ragazza mi pare, e ce l'ho ancora, è di quel colore lì, però ancora col cassetto. E a me serve più grande. Cosa più grande, se ne la trovo a Stracumara, tu mi dai un pareggio. Non c'è nulla mai da, tutto bello. E farò un salto. Fatta brioche, positivo dai vai. Avanti, bombolos. Ah, funziona questo coso drudiato. Ah, funziona. Campa, e chi c'è che sono a contro me? Cazzo, siamo di prova, che febbro. Oi, gaffa, positivo, dai. Beh, ragazzi, io me ne scendo giù, qua c'ho la tuta accesa, siamo già a 23 gradi, tutto a posto, me ne scendo giù, vado a mangiare la pappa, ok? Gaffa, andrà bene, sì, va bene comunque tutte le mattine quello che sto facendo lui, capisci? Capito. Quello molto azzato, il messaggio. Ok. Capito? Sì, si apporta, e così poi quando c'è 10 minuti da sempre una sbirciata, capito? Andiamo, dai, ciao Bombo, ciao Claudio, ciao Luca e ciao e la Recce di Buco, che finisce un bel. Ciao! Sì, ma Massimiliano, non ho capito cosa. Lo mandi su WhatsApp adesso un messaggio. PDF. Oh, ora sta capito, cazzo. Ma cosa fatti che sta a fare? Che si sentite qualche differenza? No, tu, quello che mi mandi tutte le mattine, lì. Eh beh? Grazie, ho detto. Ah, eh. Ma già, se tu mandi non me l'ha mandato. Se te lo mando vuol dire che, cioè, se lo mando ogni giorno, ma tu dico, ma vado presto adesso, alle 7, alle 6 e mezza, stamattina. E tu manda, quando mandi, manda, capito? Giova, ciao. Ciao, Massimiliano. Ciao Massimiliano! Questo è il Denzi, l'altro microfono, bene va! Ciao Massimiliano, alle 12 mine, cos'è tanto? Chi su cosa andava bene? L'ho ritirato stamattina! Ciao a tutti, vai, io, già va bene a tu, ciao! Ha detto che non ne fa più beauty, e si mi pongo l'MB più 4, no anzi! E pongo l'MB più 4, va, che forse è meglio! Già va bene. Scappa. Mi l'ho ritirato stamattina, dice che gli ha cambiato la capsula. No, va bene. Ottimo per la truppa, non lo fa più quello scorreggio. Scappa. E ha fatto a modo. A modo dai che mi l'ha dato. Adesso gli faccio un giro. Tanto mi serve più giù a casa di Marina. Se trovo un MB più 4. Perché su subito. Ma usato un biglio nuovo. Ragazzi, un biglio nuovo, tanto fate venire fea. Ma non lo smetterò per dire, questo qua è nuovo. Cioè è nuovo perché è nuovo fiammante. Ma c'è dei graffiti sul tappo. Come se li ha fatti? Va bene, buttate funzioni. No, è perfetto. Ok, va tutti. Sì, prima o poi me la aggiungo un parapulino, uno strumento come ti si deve. Questo è il mio. È molto vecchio. Ui. Cracco gioco. Io ci accendo l'altro baracchino, va. Che è meglio. Più cracco, di te che sta pannuta. Non stavi travagliente, gara. Ui. Dai, fatemi guardare la partita, io sono qua, dai raga. Abbaida! Facci sapere! Io sono qua, dai, come ieri, già intervengo ogni tanto, ma sono qua, dai. No, in casa, io in Italia sono. Cosa? In Italia sono. A Torino sono, non lo conosco. La facciamo quella spalla di Uber. Andava, là. Ma lo spallo c'è in dietro. Vabbè. Ferrara è. Non è la sua straniera. Ma non si risiede che ce li ha la palla. Ma c'è la sua straniera, Cazzo, se siamo in Coppa Italia giocano gli stranieri. In Champions giocano le squadre straniere. Coppa Italia, Coppa delle Coppe, mi ricordo io vento, già vai. Hai visto? Non è regalato, ma vai da dire un rigore. Allucinante, ragazzi. Non vedi neanche la squadra. Guarda che ci sono un po' dai lati, per carità. critico, se no con la pippa vince qua. Morata, non saranno. Ma Ronaldo ci viene, mi abbatto. Ma giù mai, cazzo. Cosa viene il culo in me, dove? Ma c'è la spiazzata, vai, non ne comprendi nulla di calcio, tu. Questa squadra. L'abbiamo eliminata dalla Serie A. Sì? L'abbiamo eliminata dalla Serie A questa squadra. Io vi ho eliminato tutti gli interisti come te. Ah, dai, per carità. È una squadra di merda, io purtroppo la penso così, senti un po' sul vanutano. Però è una squadra di merda. E anch'io la penso così, e l'Inter è una squadra di merda, è tutti gli interisti. E infatti siamo parlati noi, c'è dei B, no, vero, ma va, vergognatevi, cazzo. Che noi non siamo ladri, invece voi siete ladri e siete rimasti in Serie A, attivo avete comprato la FIFA, muto me, a me va a fare dammi. E la FIFA, la FIFA è della pugna, a te. Allora, io me l'ho già comprato, presidente della FIFA, io me l'ho già comprato, è della VGC. Ah. Oh, Roberto, lo coso tu, io ce l'ho comprato, Moratti. Ah. Vai, muto, vai. Lascia perdere, lasciami guardare la mia Juventus, cioè, per favore. Ti ricordo che la vincente di questa gioca con la vincente del Milan, quindi ne parliamo la prossima settimana di nuovo, Juventus Inter, vediamo se vincete di nuovo. Vediamo, non è il problema. Sai perché non rubate come fate sempre, no? Vi poi comprate guardalini oppure come si chiama? L'arbitro, come fate sempre. Tutti che si copiano, tutti furati, per carità. Ma scusa, se andate in Serie B per quale motivo? Vuol dire che rubevate, no? Punto, giusto, no? L'Inter non c'è andato, ma forte comunque. Tu di calcio ne capisci quanto io ne capisco di puttane, capito? Quindi stai zitto, lo sai che ti voglio bene, parla di altre cose ma non parlare con me di calcio. La Juventus ha rubato, i dirigenti hanno rubato, non la Juventus. Io la Juventus la vedo come squadra, come tu vedi l'Inter, perché non sai neanche chi è il presidente dell'Inter tu, con tutto chi sei interista. Quindi lascia perdere. Hanno arrestato il manager della Juventus, ed è chiaro che arrestando il manager della Juventus, che era Muggi, la squadra è andata in Serie B. Ma non c'entrava niente la squadra, il giocatore non è furato nulla, io mi ho i giocatori, non i dirigenti. Hai capito, bello bene? Quindi cambia discorso, che non mi comprende nulla lui, il gaggio, era bravo. Dai, però, dai! Chi è il presidente? È il cinese, eh? Ehi, ma come ti si chiama? Non mi ricordo, aspetta. Ha detto l'altro giorno, vabbè. L'avevo visto anche lì. Steve, mi pare. Steve, boh. Ah, cosa ci riprende? Si chiama Cinciampai. Vai. Chi è il presidente della Juventus, invece? Chi è presidente della Juventus? Sempre la pecora, figlia dell'agnello. Ah, non è molto ancora. Ehi, tutti sono morti, mi è rimasto un figliolo. Comunque, Steven Zhang. Si scrive Yang. Juve storica, sempre gli agnelli hanno comandato. C'era gioia, tutto gioio. Da Torino ero gioio. La città di Torino ha degli agnelli, quindi da voi mi comandi. Che cazzo può giocare in porta? Però è storica per quello, la vecchia signora che si chiama così, ma chi sono sempre gli agnelli, i vecchi signori che comandano. Invece voi ve l'avete venduta a 4 volte l'Inter, a voi ve la dovrete vendere, se c'è un dissocio, che non va più un cito. Vabbè, ti ho fatto una domanda, tu mi rispondi, non ne capisco niente, ti comprendo i bagagli, non capisco, vabbè. Io vorrei capire perché siete andati a finire in Serie B, non mi hai risposto, è inutile che tu mi giri le parole. Per quale motivo siete andati in Serie B? Se non mi rispondi. Vabbè che non capisco niente, tu sei più bravo, va bene, ok, ci sta, accetto, non mi offendo. Perché hai finito in Serie B? Ma io non ti sto dicendo che sono più, ma tu quando gioco fa vedendo, mi stai ascoltando o stai vedendo la televisione? O vai rugabba basciato? Ti ho detto, siamo andati, la Juventus è andata in Serie B, perché c'è stato Muggi, che era il manager, quello che comandava tutto, della Juventus. Juventus, l'amministratore delegato, che ci comprava tutto, ci comprava le partite, ci comprava i cosi, gli arbitri, ci comprava tutto, ci comprava, capito? Era un corrotto di merda, capito che era un corrotto di merda? Ma io non quantifico i giocatori non hanno fatto niente. Io sono juventino per i giocatori, non perché sono amico di Moggi o a chi sono simpatizzante di Moggi, allora, o sono oggi simpatizzante, capito? Quindi io ti sto dicendo, la Juve è andata in Serie B, meritatamente è andata in Serie B, perché hanno fatto un casino di Gesù Cristo, gli amministratori della Juventus, non i giocatori, capito? Tanto è vero che tutti i giocatori sono andati a giocare in Serie B, capito? Compreso anche Buffon, hanno fatto un anno in Serie B, hanno escluso tutti i soldati d'oro in Serie A, è giusto che sia andata così, ma cosa c'entrano i giocatori? E alla fine non c'entra niente, i giocatori, la squadra in sé c'entra, tutto insieme, la squadra, Moggi che va all'acche. Non c'entra niente la squadra non c'entra, i giocatori non c'entrano mai niente, vengono sempre pilotati dalla direzione. In quel caso Moggi, che era il direttore generale della Juventus, faceva quello che voleva, ma non di certo i giocatori gliel'hanno fatto fare, Luca. Capito? L'ha fatto lui perché aveva un potere allucinante nella FIGC, era il padrone, maneggiava chiunque, capito? Telefonava all'allenatore o al presidente per dire dell'Inter, oh c'è Inter Juventus, guarda che noi ci servono i punti perché lo sai qui e là, poi lo sai cosa è, ti faccio avere qui e là, si giocava tutto, tutto, manovrava qualsiasi persona, infatti l'hanno arrestato, non hanno arrestato i giocatori, i giocatori non gli è successo niente, hanno arrestato lui, l'hanno buttato fuori ed è venuto Marotta al posto suo, che oggi è il direttore generale dell'Inter, capito? Quello era prima, il direttore generale della Juventus. Ho capito, vabbè, comunque sia, va appieto comunque, la tua, io dirò la tua, tu cosa ne pensi della periferia di Claudio? Comunque già è vero quello che è successo, perché io l'avevo sentita quella storia lì, che poi non entrava nulla è successa una storia del genere, perché io l'ho già sentita. Ma è così, la realtà è quella, come l'Inter si è salvata, perché? Perché c'era anche lei in mezzo, c'era il Milan, c'erano altre squadre, ok, c'era la Sampdoria allora, c'erano belle squadre, perché erano tutte corrotte da direttore generale di merda, capito? Perché è lui che ha rovinato il calcio italiano. Calciopoli, Luca, ti ricordo, il Calciopoli è nata proprio dallo scandalo Moggi, il casino è successo tutto da lì, capito? Ma non i giocatori non c'entrano niente, nulla, perché l'Inter era stata messa in mezzo, perché praticamente avevano preso Ray Coba, se ti ricordi, che era un extracomunitario, senza tesserarlo, con tutta la documentazione falsa, però si sono salvati perché all'interno di quel contesto c'era qualcuno che li ha salvati, altrimenti andavano anche loro a finire, andavano, la società, non i giocatori, capito? È tutto un casino, era successo un casino del genere, ma non perché è successo così. La Juve ha preso il colpo più forte di tutti, perché quel bastardo, quel corrotto di Moggi, si comprava tutto, partite e tutto, qualsiasi cosa si comprava, capito? Avanti Anto. Io mi ricordo un fatto del genere che è successo un po' di qualche anno fa, è successo, mi ricordavo un fatto del genere, era anche un Calciopoli, un casino è successo. Tutto da lì è nato, tutto dalla Juventus, tutto dalla direzione generale della Juventus è nato. Una volta hanno arrestato a Moggi, hanno iniziato a indagare, a fare, sono finti un sacco di cose da tutte le squadre, sia l'Inter, il Milan, però c'è chi ha lavorato meglio e niente, ma il vero capo di tutto, di tutta la FIGC era Moggi, tanto è vero che l'hanno arrestato, l'hanno espulso dal calcio italiano, non è più entrato a far parte di niente, capito? È giusto che la squadra vada in Serie B, perché la dirigenza è quella che comanda, io condanno la dirigenza, automaticamente ti retrocedo alla categoria inferiore. Ma ricalciatore, goccia ventra. Ma appunto, purtroppo molte volte si è, come si dice, sono dirigenze del capolo, ci sono e succedono questi fatti qua. Eccoci, sì, così è. Comunque è andato quell'importo stamattina, quella roba lì, Che cosa? Quella roba lì che sapevi da ieri. È venuto, se l'ha visto, se l'ha guardato, le è piaciuto, l'ha provato e dice che funziona bene. Sì, lo stava provando, se gliel'hai già dato lo stava provando stasera. Faceva da 9.10 a 9.20. Ma è poco, no? Qualcuno meno un'antenna, ma un'antennina che gli ho dato io. Sì, lo so. Non è buccia di gioca, no. Infatti, va bene. Già va bene. Ho consigliato pure io cosa prendere per riuscire a supportarlo bene. Un passaggio, ma si può fare un passaggio del genere in aria? Allucinante che è. Ma la stai guardando lui? Aspetta un attimo. Mio pareggio, mio babbo. Pareggiato? Cosa? Pareggiato hanno? No. Mi ha preso il pallone dai piedi. Non sta giocando Ronaldo, questo è un turnover, non è che possono giocare tutti in Coppa Italia, questa è quasi la seconda squadra, capito? Perché poi c'è l'altra partita sabato di campionato. Scappa. Ah, te lo ricordi, Rolandino, che fine fa che ha fatto? Cesso che ha. E chi? Maldinio, non c'è più inteso chi so. Ronaldinho? Sì, Ronaldinho. No, non l'ho più sentito, né più visto neanche in televisione. Ha fatto, a quanto stavo guardando, ha fatto un po' di fine bella. Sì, un po' di fine brutto ha fatto. E la venderò dopo, La venderò dopo e la inciampato. Ha fatto guardando una storia così, l'altro giorno. Oh. Ciro Mattesimi, capisci a me? Ho compreso via. Così lo devi usare, così si usano queste radio, capito? C'è bisogno di tirare il collo, già lavorano loro, tranquille. Sì, già lo so, già. E questa è quella che è arrivata oggi alle 3, me l'ha portata la CDA, l'ho sballata, per tutta la sera accesa, è veramente a posto, in ordine. È già una buona radio, già. E è arrivata resettata, l'ho dovuta di nuovo tutta memorizzare, la mazza nelle varie. Ed è normale che la cuda tutta resettata, capito? E allora l'ho messo tutte le sue memorie. No, quello che io ce la dovrebbe fare abbastanza, dovrebbe andare bene. Quale? 30 ampere. Ah, grande. Come io domani mattina c'ho appuntamento con Gigi, devo portare due alimentatori di quelli switching e deve fare un 24 volt per il sommergibile, così lo metto l'alimentatore suo a parte senza usare quello del lineare, capito? Ah, però non quello l'alimentatore. Sì, quello 24 del lineare, no? Io c'ho il lineare 24 volt e ci ha attaccato anche il sommergibile, però il sommergibile lo faccio andare da solo, domani me li fa Gigi, me li accoppia, poi li dobbiamo chiudere in un coso, devo mettere le bananine, tutto, il coso, il l'interruttore. Ah, è capo. Sì, ma dice che lui sa fare questi A24. Certo che sa fare, fatelo da lui, ma lo faccio fare da lui, gli va una coppia a dito. È una cazzata, però devi saperlo fare, io poi no. Faccio fare a lui. Capito? Vabbè, aiuto e tira, tira adesso. Esci Maria, vabbè. Mette due appagliati di questi e ti fa la 24, così è. Esatto, tanto le mette in serie, capito? Si collega uno con l'altro, fa 12 e 12, li tara prima con la stessa tensione, tutto, capito? Dentro. No, purtroppo devono essere giusti, 2 da 30 devono essere 2 da 40, 2 da 50, io purtroppo ne ho 1 da 50 e 1 da 40, però mi ha detto che si può fare lo stesso, capito? Ah, capo, sì che si può fare. Poi si può anche fare così, perché questi hanno più cose, si può fare la 24 e poi fare nello stesso coso, mi pare che si può fare anche la 12, con le bananine e tante cose. Sì, infatti uso una parte a 12 e una parte a 20, lo faccio sia a 12 che a 24, capito? Infatti sto preso 4 bananine, una rossa e nera, una rossa e nera, e faccio due uscite, capito? Come quello che ho adesso, ma è così, posso usare una parte a 12 che mi sembra sia a 40 ampere e 60 ampere a 24. Sì. No, anche questo che ci ha fatto bene, ci va bene. Io dico che va bene. E per sono certe apparecchiature che fanno a 24. E vabbè, il sommergibile fa 24 volte, se non poi ci vanno tutto. È alimentato 24, però per non prendermi la tensione dell'amplificatore le metto l'alimentatore su, ho capito. Sì. Capito. L'origine cosa hanno loro per alimentare quello? Non un alimentatore particolare, originale. Quale? Lineare che c'ho io? No, quello sommergibile. Tanto 24 volte va, non va a 12, c'è la batteria sua, però se le attacco la batteria si scarica. Allora le do l'alimentazione diretta, c'è il connettore per alimentarlo diretto, capito? Ma dico, in origine cosa sono? Due batterie contrapposte, originale. No, non lo so cosa c'è dentro, è una scatola che si applica, c'ha degli attacchi, si stringe, capito? Si stringe e rimane ferma, quella ci mette per mettere la tracolla, quando lo porti in giro c'è la batteria esterna con l'antenna esterna, quando è a casa le stacchi la batteria, le stacchi l'alimentazione diretta e l'antenna diretta, capito? Ho capito. Ah, bella raga, ce la vedi che è stata nuova. Un grigio martellato, verde non mi piaceva, andava troppo all'occhio, un grigio martellato bellissimo, sempre militare, capito? Quel grigio tipo guardia di finanza, quel grigio lì, martellato, molto bella giunta, nuova nuova. Ciao, va bene, sì. Vabbè, il suo colore è quello militare, il verde. No, ma non era verde questa non era verde, questo era un grigio scuro, sembrava un verde, ma non era verde guardandolo bene, capito? E quindi l'ho fatta più o meno come era prima, però è bella perché il frontalino è nero, quindi si stacca con questo grigio scuro, è più scuro del Kenwood. Ho capito. E quale radio doveva essere scura, senza luci, senza niente, se no arrivi anche fusilata. comunque oggi ho fatto l'esperimento, oggi ho detto roba mia, se non funziona ci va bene le luci. Ho riempito la vasca a metà e l'ho messa a bagno la vasca. Ecco ta moglie. Sì, l'ho tolta, senza neanche asciugarla, l'ho tolta, l'ho messa sopra uno straccio, l'ho lasciata asciugare da solo, perché se l'asciughi, il risultato io volevo vedere, è nulla, l'ho lasciata asciugare da sola, poi l'ho riattaccata, perfettamente funzionante, è stagna, capito? È stagna, non entra acqua. Non deve entrare acqua, perché sennò... Quegli anni lì, cioè quando facevano quelle cose, dovevano fare affrontare la guerra, se si farà per un fiume, come si fa a dire. Ma poi io c'ho il coso a tracolla, quindi quando tu la metti a tracolla, come hai detto tu, attraverso i fiumi, le cose, di rampi in mezzo alle bugie di leva, eccetera, ma poi si vedono. Fate una guarnizione di là di strada, si vede la guarnizione, capito? Poi sta piena di bulloncini, da una parte, dall'altra, in mezzo, è stagna. Ha detto, boh, siccome Gianni Cappi mi ha detto che con la radio è stagna, io so che lui è molto preparato in materia, io la voglio provare, a vedere. L'ho messa a bagno, senza i cavetti, senza niente, solo la radio, senza microfono, senza nulla, capito? Solo la radio. L'ho lasciata asciugare, ti ho detto, poi l'ho riattaccata ed è perfettamente funzionante. Non riparta di nulla, no? Beh, ma se prima l'ha detto Gianni, tu di queste cose già le conosce, capito? Perché lui ne ha masticato di queste belle radio militari, perciò mi sono fidato e te ci la proviamo a vedere là, se entra acqua, se la biglia luce, poi c'è niente. Ma anche i pulsanti è tutto stagno, è anche il frontalino. Deve essere per forza così qua. Ma no, da cui da moglie, no? Se vuoi fare una di ghizzi, grazie di c'è un fumo. Se la fumo gli ghizzi ci viene lo Smith Ardeva. Dice dall'altoparlante. Capito? Infatti l'ho chiamato il sommergibile. Già, lo so già. Io sai cosa è, quando io entro acqua se sta molti anni in mare, allora sì che lo rovina, ma così fa poca cosa, non li fa tenuta. Ma io una simile a questa, stagna così, l'ho vista a bordo una bella barca, una bella navicella, a Santa Teresa di Gallura, capito? Simile a questa. Aveva anche le bande marine, cosa che ci ha penso anche questa, non lo so. Non lo so, c'è un po' di cose, ma io non ho tocco nulla, l'ho lasciato lì così com'è. Devo solo, domani se ne ho voglia gli attacco il dipolo, prima che ne lo attacco la provo a vedere in HF se riceve bene, se è tutto a posto. Io penso che vada. Non penso che vada. No, già va. Chi me l'ha data la stava usando, quindi già va. Non c'è problema. Già va. Adesso dovrebbe, cioè, diciamo che sono un po' scomode magari, non dice un gozzo. Ma magari fanno tutte le bande per, non lo so. Come siano progettate queste radio militari? Non lo so, Anto. Non ti so rispondere in materia, non è che sono molto preparato. È una bellissima radio, molto bella anche esteticamente, bella compatta, bella robusta. E la usiamo. Almeno ascoltare. Domani metti il buon guru. L'urgoglio di polo di 40, la metto in 40 metri, vediamo se funziona. In SSB. Proprio un po' per se va, ma io penso di sì. Sicuramente già va. Peccato devo ascoltare con la... microcornetta. Lo so. Piano piano. Ma quella persona là ha ripristinato quello che gli ha portato via tutto. Cosa? Quella persona là ha ripristinato, cara. Quella persona. personale ripristinato. Le antenne, sai qualcosa? Ripristinato le antenne. E chi è tu? Io sono un po' fuori dal mondo. Chi sono quello ciclone che sta portando tutto? No, beh, lì stanno facendo pulizia adesso, poi sicuramente ripristinerà tutto e non ne ha problemi. Metterà tutto nuovamente a posto, ma prima di mettere le antenne, Antonio, c'è sistemare il tetto, c'è sistemare tutto. Ehi, cazzo, da una rete ha fatto. Stavo sentendo che hai fasciato tutto. E dico, ma cubica per passare il tuo bocco, non so. Era rotto le palle che ha... anche tra lì ci capita, ma non ce n'è problema, già mette tutto in ordine. Ehi, adesso sicuramente farà riparare prima tutto il tetto, tutta la parte edile e poi rimetterà le antenne come erano, già non ce n'è problema. E capo, io quando si finisce i corsi sono belli di rame, si faccia tutto. Ehi, di dinare la banana mancata, proprio lì si è baita, sarà preoccupato. Ah, vabbè, quello no, però... sempre rottura perché magari si piglia anche d'uno, qualche altra abitazione ve la devi pagare. No, ma lì è tutto suo, tutta roba sua, Antonio, non credo, non penso, io non sono andato manco a vedere la verità, no. Non è che devo andare a vedere le cose degli altri, però conosco bene il posto, sicuramente è caduto tutto nella parte sua, tutta roba sua loro, capite, di loro lì, non ce n'è problema. Adesso poi ti ripeto, non lo so, tu, no? Me l'hanno detto, mi è dispiaciuto tantissimo, mi dispiace tantissimo, però è andata bene, pazienza, l'antenna, gli avvenenni, tempo in tempo hai fatto glacca, vanno in tutto. Sant'Antonio mio, questo. Mamma mia, lo metto, meno male, mai più, per carità, quanto sto bene, non c'ho problemi, c'è la mia mantova. Due antennine di plastica, basta così, un decolino, giusto per ascoltare, e su che andiamo, e continuiamo a fare il CB. Capo, ma cavolo, visto la fascia di vento forte, ma la mantova è la mantova, cavolo, ma una resistenza di Sant'Enna, che è una cosa impressionante, che secondo me è buona veramente. No, bella mia è rimasta al suo posto, no? Una raffica che tenga, no? C'è un palo bel grosso, qualificata bene, già l'ha vista Luca, l'ho visto, allora bene, poi come l'ho messa adesso c'è anche tiranti perché l'ho tirata un po' più su, però è piazzata bene, certo se fossero state le direttive ne sarebbe caduto tutto, il palo no, ma le direttive le avrebbe spezzate, il rotore magari avrebbe rotto, avrebbe fatto un sacco di danno, troppo alto, tanto dove sono io. Che ne dicano, tralici contro tralici, cazzo va giù tralici, ho di 40 metri, io giuro, poi le antenne, ah, va bene così, mi va bene così, largo agli altri, io sto bene così. Sì, ma hai fatto bene, dai, alla profila se non te la sentivi più, hai fatto benissimo, appena vai, se ne farà un'altra macchina, devi pagare tutto. No, non usa le cose che ha, cosa ne fai? Ma fa vedere che vai le antenne, che vai tutto. No, è tutto basso. Adesso stamattina sono salito perché ho eliminato anche il... ho smontato anche il mio segnato di cavi, ho smontato anche il commutatore elettronico, capito? Visto che le antenne ce n'erano attaccate, l'ho smontato e l'ho conservato, almeno rimane nuovo, capito? Anche se è stagno quello lì, eccetera, però ho eliminato anche quello. E quindi ho messo l'antenna diretta stamattina. Mi ho approfittato, non stava piovendo, ma 10 minuti. Ho staccato il connettore, ho attaccato il connettore all'antenna diretta, mi sono portato giù il commutatore d'antenna, l'ho conservato, quello costa 250 euro il commutatore. Vai tu. Fatto bene, va. Gli aveva messo un barilotto, gli ha messo. Per mettere la diretta o l'hai attaccata all'antenna? Cosa hai fatto? No, Anto, praticamente c'è lo spezzone che va dall'antenna alla centralina del commutatore. Ho staccato lo spezzone e ho messo l'antenna diretta. metto un'altra antenna verticale per la 27.